Timothy era un vecchio bracciante vigoroso, di un tipo che a quei tempi si trovava ancora, che teneva i propri risparmi in un calzerotto, viveva in un cottage solitario e non si poteva convincere con alcuna capacità oratoria. Nutriva un così scarso spirito feudale ed era così incredulo da far credere che non fosse stato del tutto all'oscuro dell'età della ragione e dei diritti dell'uomo. Caleb si trovava in una difficoltà nota a qualsiasi persona che, senza l'ausilio di un miracolo in tempi oscuri, tenti di ragionare con dei campagnoli che sono in possesso di un'innegabile verità, che conoscono attraverso un duro processo dell'esperienza e possono lasciarla cadere come una clava da gigante sulla vostra argomentazione abilmente concepita in favore di un beneficio sociale che loro non sentono. Caleb non aveva alcun luogo comune alla propria portata, anche se avesse potuto scegliere di usarlo, e non era stato abituato ad affrontare tutte le difficoltà di questo genere in nessun altro modo che svolgendo i propri affari con precisione. Egli rispose: «Se non la pensate bene su di me, non importa. Questo adesso non ha nessuna importanza. Può darsi che le cose vadano male per il povero, vanno male, ma voglio che questi ragazzi qui non peggiorino le cose per loro stessi. Può darsi che il bestiame abbia un peso gravoso da portare, ma non gli sarà di alcuna utilità buttarlo nel fossato a lato della strada quando si tratta in parte del suo cibo. Cercavamo solo di divertirci un po', disse Hiram, che cominciava a rendersi conto delle conseguenze. Era tutto quello che volevamo. Bene, promettetemi di non immischiarvi di nuovo e io vedrò che nessuno vi denunci. Io non mi sono mai mischiato e non ho bisogno di promettere, disse Timothy. No, ma gli altri? Andiamo, ho da lavorare sodo come tutti quanti voi oggi e non ho molto tempo da perdere. Dite che starete tranquilli senza bisogno del poliziotto. Vabbè, non ci mischeremo. Per noi possono fare come vogliono, fu la forma in cui Caleb ricevette le promesse. E poi si affrettò a tornare da Fred, che lo aveva seguito ed era stato ad osservarlo al cancello. Andarono a lavorare e Fred lo aiutò vigorosamente. Gli era tornato il buon umore e si divertì di cuore a un bello scivolone nella terra umida sotto la siepe, che gli sporcò i suoi perfetti pantaloni estivi. Ciò che lo aveva reso euforico era il suo attacco riuscito o la soddisfazione di aiutare il padre di Mary, qualcosa di più. Gli incidenti della mattinata avevano aiutato la sua immaginazione frustrata a figurarsi un lavoro che aveva diverse attrattive. Non sono sicura che certe fibre della mente di Mr. Gerth riprendessero a vibrare come un tempo per lo stesso scopo che ora si rivelava Fred. Perché l'incidente risolutivo non è che il contatto del fuoco dove c'è petrolio e stoppa, e Fred ebbe sempre l'impressione che la ferrovia portasse il contatto necessario. Ma continuarono in silenzio, tranne quando il lavoro richiedeva di parlare. Alla fine, quando ebbero terminato e stavano allontanandosi a piedi, Mr. Gerth disse: «Un giovanotto non è necessario che sia laureato per fare questo genere di lavoro, eh, Fred?» «Vorrei essermici dedicato prima che avessi pensato di andare all'università», rispose Fred. Tacque per un attimo e poi aggiunse con maggiore esitazione: «Pensate che abbia troppi anni per imparare il vostro lavoro, Mr. Gerth?» «Il mio lavoro è di molti generi, ragazzo mio», disse Mr. Gerth sorridendo. «Gran parte di quello che so può provenire solo dall'esperienza. Non si può imparare come si imparano le cose da un libro, ma sei abbastanza giovane per buttare ancora le fondamenta». Caleb pronunciò l'ultima frase con enfasi, ma si fermò in preda a una qualche incertezza. Negli ultimi tempi aveva avuto l'impressione che Fred avesse deciso di farsi prete. «Pensate davvero che potrei combinare qualcosa di buono se tentassi?» chiese Fred con impazienza. «Dipende», disse Caleb, voltando la testa da un lato e abbassando la voce con l'aria di uno che pensava di dire qualcosa di profondamente religioso. Devi essere certo di due cose. Devi amare il tuo lavoro e non stare sempre a guardare oltre di esso, aspettando che cominci il divertimento. E l'altra è che non devi vergognarti del tuo lavoro e pensare che sarebbe più onorevole se facessi qualcos'altro. Devi essere orgoglioso di fare il tuo lavoro e di imparare a farlo bene e non dire sempre: c'è questo e c'è quello. Se avessi questo e quello da fare, potrei fare qualcosa di buono. Non importa questo che faccia un uomo, non dare dei soldi per lui». A questo punto la bocca di Caleb assunse un aspetto amaro e fece schioccare le dita. Se fosse primo ministro o impagliatore di tetti, se non facesse bene quello che si è impegnato a fare, sento che non sarei mai così facendo il prete, disse Fred con l'intenzione di entrare in argomento. «Allora lascia perdere, ragazzo mio», disse Caleb bruscamente, «altrimenti non sarai mai tranquillo, oppure se sei tranquillo sarai una persona mediocre. Questo è più o meno ciò che ne pensa Mary, disse Fred arrossendo. Penso che dobbiate sapere quello che sento per Mary, Mr. Gers. Spero che non vi dispiaccia, che l'abbia sempre amata più di chiunque altra e che non amerò mai nessun'altra come amo lei. L'espressione del volto di Caleb si addolcì visibilmente mentre Fred parlava, ma volse il capo con solenne lentezza e disse: Questo rende le cose più serie, Fred, se vuoi prenderti cura della felicità di Mary. Lo so, Mr. Gers, disse Fred con impazienza. E per lei farei qualsiasi cosa. Dice che non mi accetterà mai se mi faccio prete, e io sarò l'uomo più disperato del mondo se perderò ogni speranza di avere Mary. Veramente, se potessi trovare qualche altra professione, attività, qualsiasi cosa per cui sono adatto, lavorerei sodo, mi guadagnerei la vostra stima. Mi piacerebbe fare delle cose all'aperto, mi intendo già abbastanza di terra e di bestiame. Ero solito credere, capite? Sebbene per questo mi considererete piuttosto stupido, che avrei avuto della terra di mio. Sono sicuro che acquisirei facilmente conoscenze di quel genere, soprattutto se potessi lavorare in qualche modo sotto di voi. Piano, ragazzo mio, disse Caleb con l'immagine di Susan davanti agli occhi. Cosa hai detto a tuo padre di tutto questo? Niente ancora, ma devo dirglielo. Aspetto solo di sapere cosa posso fare invece di diventare prete. Mi spiace molto deluderlo. Ma uno dovrebbe poter giudicare da sé quando ha 24 anni. Come avrei potuto sapere, quando avevo 15 anni, cosa sarebbe stato giusto che facessi ora? La mia istruzione è stata uno sbaglio. Ma ascolta questo, Fred, disse Caleb. Sei sicuro che Mary ti voglia bene o che ti accetterebbe mai? Ho chiesto a Mr. Fairbrother di parlarle, perché lei me lo aveva proibito. Non sapevo cos'altro fare, disse Fred in tono di scusa. E lui dice che ho ogni motivo per sperare se posso trovarmi una posizione onorevole, voglio dire, al di fuori della carriera ecclesiastica. Suppongo che giudichiate ingiustificato da parte mia, Mr. Gers, scomodarvi e imporvi i miei desideri su Mary prima che abbia fatto la sia pur minima cosa per me. Naturalmente non ho il minimo diritto, in effetti. Ho già un debito nei vostri confronti di cui non mi libererò mai, anche quando sarò riuscito a pagarvelo sotto forma di denaro. Sì, ragazzo mio, hai un diritto, disse Caleb con tanto sentimento nella voce. I giovani hanno sempre il diritto di essere aiutati dai vecchi ad andare avanti. Sono stato giovane anch'io una volta e ho dovuto arrangiarmi senza tanti aiuti, ma gli aiuti mi sarebbero stati assai graditi, anche se fosse stato solo per comprensione. Ma devo pensarci su. Vieni da me domani in ufficio alle 9. All'ufficio, ricorda. Mr. Gert non avrebbe fatto nessun passo importante senza consultarsi con Susan, ma bisogna confessare che prima di essere arrivato a casa aveva preso la sua decisione. Rispetto a un gran numero di questioni in merito alle quali altri uomini sono decisi o ostinati, era l'uomo più malleabile di questo mondo. Non sapeva mai che carne scegliere e se Susan avesse detto che dovevano vivere in un cottage di quattro stanze per risparmiare, egli avrebbe detto andiamo, senza chiedere particolari. Ma nel caso in cui il sentimento e il giudizio di Caleb si pronunciavano con fermezza, era un dominatore e a dispetto della sua mitezza e della timidezza nel rimproverare tutti coloro che lo circondavano, sapevano che nelle occasioni eccezionali in cui era lui a scegliere, era categorico. In effetti, non voleva mai essere categorico se non in favore di qualcun altro. In 99 casi sceglieva Mrs. Gerth, ma nel centesimo lei si rendeva spesso conto che avrebbe dovuto eseguire il compito singolarmente difficile di mettere in pratica il proprio principio e sottomettersi. Si è risolta come pensavo, Susan, disse Caleb quando quella sera rimasero seduti soli. Aveva già raccontato l'incidente che aveva portato Fred a condividere il suo lavoro, ma aveva tenuto per sé il risultato che era venuto dopo. I ragazzi si vogliono davvero bene, voglio dire Fred e Mary. Mrs. Gerth si posò il lavoro sul ginocchio e fissò con ansia gli occhi penetranti sul marito. Dopo che avevamo finito di lavorare, Fred mi ha aperto il cuore. Non può sopportare di fare il prete e Mary dice che non lo accetterà se lo farà. E il ragazzo vorrebbe venire a lavorare sotto di me e dedicarsi agli affari. E io ho deciso di prenderlo e di farne un uomo. Caleb, esclamò Mrs. Gerth con un tono intenso di contralto, espressione di uno stupore rassegnato. È una bella cosa da fare, disse Mr. Gerth, appoggiandosi con fermezza contro lo schienale della poltrona e stringendone i braccioli. Avrò delle noie con lui, ma penso che ce la farò. Il ragazzo ama Mary, è un amore sincero per una brava donna, è una gran cosa, Susan. Forma molta gente grezza. Mary ti ha parlato della cosa? Chiese Mrs. Gert, in fondo un po' ferita dal fatto che lei stessa dovesse essere informata. Neppure una parola, Una volta le chiese di Fred, le diedi un piccolo ammonimento, ma lei mi assicurò che non avrebbe mai sposato un uomo zioso e indulgente verso se stesso, nient'altro da allora. Ma sembra che Fred abbia convinto Mr. Fairbrother a parlarle, perché lei gli aveva proibito di farlo, e Mr. Fairbrother ha scoperto che lei è innamorata di Fred, ma dice che non deve fare il prete. Il cuore di Fred è fissato su Mary, questo lo vedo. La cosa mi fa pensare bene del ragazzo e noi lo abbiamo sempre avuto caro, Susan. È un peccato per me, ripenso, disse Mrs. Gert. Perché è un peccato? Perché Caleb, lei avrebbe potuto trovare un uomo che ne vale 20 di Fred Vincy. Ah, fece Caleb sorpreso. Credo fermamente che Mr. Fairbrother le sia affezionato e avesse intenzione di farle una proposta, ma naturalmente adesso che Fred se ne è servito come messaggero, quella prospettiva migliore muore lì. Nelle parole di Mrs. Gerth c'era una severa precisione. Era irritata e delusa, ma aveva intenzione di astenersi da inutili parole. Caleb rimase muto per alcuni momenti, preso da sentimenti contrastanti. Guardò il pavimento e mosse la testa e le mani, accompagnando una qualche argomentazione interiore. Infine disse: Questo mi avrebbe reso assai orgogliosa e felice, Susan, e sarei stato felice per amor tuo. Ho sempre pensato che i tuoi familiari non sono mai stati al tuo livello, ma tu hai scelto me, anche se ero un uomo comune. Ho preso l'uomo migliore e più intelligente che avessi mai conosciuto, disse Mrs. Gert, convinta che lei non avrebbe mai amato nessuno che fosse stato inferiore a quel livello. Beh, forse degli altri hanno pensato che avresti potuto fare di meglio, ma per me sarebbe stato peggio. E questo è ciò che mi tocca nell'intimo per Fred. Il ragazzo in cuor suo è buono, è intelligente quanto basta, se viene instradato bene, e ama e onora mia figlia oltre ogni cosa. E lei gli ha dato una specie di promessa a seconda di quello che lui diventa. Io dico, l'anima di quel giovane è nelle mie mani e farò del mio meglio per lui. Che Dio mi aiuti. È il mio dovere, Susan. Mrs. Gerth non era solita piangere, ma ecco che una grossa lacrima le scivolò sul volto prima che il marito avesse finito. Era conseguenza dell'intensità di vari sentimenti in cui c'era molto affetto e un po' di irritazione. Se l'asciugò rapidamente dicendo: Pochi uomini a parte te penserebbero che fosse loro dovere aumentare i propri problemi in questo modo, Caleb. Questo non vuol dire niente. Quello che penserebbero gli altri. Sento chiaramente qualcosa dentro di me. E quello seguirò. E spero che il tuo cuore sia con me, Susan, nel rendere ogni cosa il più facile possibile per Mary, povera bambina. Caleb, appoggiando la schiena alla poltrona, si appellò ansiosamente con lo sguardo alla moglie. Questa si alzò e lo baciò dicendo: Che Dio ti benedica, Caleb. I nostri figli hanno un buon padre. Ma poi uscì e pianse di cuore. Per compensare le parole represse, si sentiva certa che la condotta del marito sarebbe stata fraintesa e per Fred era razionale e non nutriva speranze. Così si sarebbe rivelata più profetica la sua razionalità o l'ardente generosità di Caleb. Quando Fred si recò all'ufficio il mattino successivo, dovette superare una prova a cui non era preparato. Ora, Fred, disse Caleb, avrai un po' di lavoro da tavolino. Anch'io ho sempre scritto molto. Ma non posso andare avanti senza un aiuto. E poiché ora voglio che capisca i conti e ti metta in testa le stime, intendo fare a meno di un altro impiegato. Quindi devi impegnarti. Come andiamo in calligrafia e in aritmetica? Fred provò un senso di disagio al cuore. Non aveva pensato al lavoro da tavolino, ma era in uno stato d'animo risoluto e non aveva intenzione di tirarsi indietro. Dell'aritmetica non ho paura, Mr. Gerth. Mi è sempre stata facile. Penso che conosciate la mia scrittura. Vediamo, disse Caleb, raccogliendo una penna, esaminandola con attenzione e porgendola ben inchiostrata a Fred insieme a un foglio di carta righe. Copiami una riga o due di quella stima, con le cifre in fondo. A quel tempo esisteva l'opinione che fosse disonorevole per un gentiluomo scrivere in modo leggibile o con una calligrafia minimamente adatta a un impiegato. Fred scrisse le righe richieste con una calligrafia così signorile quanto quella di un qualsiasi visconte o vescovo di quei tempi. Le vocali erano tutte simili e le consonanti si distinguevano soltanto in quelle che si piegavano in su e quelle che si piegavano in giù. I tratti avevano la solidità di una macchia e le lettere sdegnavano di seguire le righe. In breve era un manoscritto di quel venerabile genere, facile da interpretare quando si sa in precedenza ciò che vuole dire chi scrive. Mentre Caleb continuava a guardare, il suo volto mostrò i segni di una crescente depressione, ma quando Fred gli porse la carta, egli emise qualcosa di simile a un ringhio e col dorso della mano batté sulla carta in modo appassionato. Brutture del genere facevano scomparire tutta la gentilezza di Caleb. Al diavolo! Esclamò in tono iroso. Pensare che siamo in un paese dove l'istruzione di un uomo può costare centinaia e centinaia di sterline, e questo è il risultato? Poi, in tono più patetico, spingendo in alto gli occhiali e osservando lo sfortunato scriba: Che Dio abbia pietà di noi, Fred! Questo non posso tollerarlo! Cosa posso fare, Mr. Gert? Chiese Fred, che si era assai scoraggiato non solo al giudizio della sua calligrafia, ma all'idea di essere messo alla pari degli impiegati. Fare? Beh, devi imparare a scrivere le lettere e a seguire le righe. A cosa mai serve la scrittura se nessuno può capirla? Chiese Caleb con energia, assai preoccupato della pessima qualità del lavoro. C'è così poco da fare nel mondo che tu debba spedire degli indovinelli per il paese? Ma questo è il modo in cui la gente viene istruita. Io perderei chissà quanto tempo con le lettere che la gente mi manda se Susan non me le decifrasse. È disgustoso. A questo punto Caleb scagliò la carta lontano da sé. Qualsiasi estraneo che avesse fatto capolino nell'ufficio in quel momento forse si sarebbe chiesto che dramma si stava svolgendo fra l'uomo d'affari indignato e il giovanotto di bell'aspetto, la cui carnagione chiara stava divenendo alquanto chiazzata mentre si mordeva il labbro mortificato. Fred si dibatteva fra molti pensieri. Mr. Gers era stato così gentile e incoraggiante all'inizio del colloquio che la gratitudine e la speranza erano state portate al massimo grado e la caduta fu di misura proporzionale. Egli non aveva pensato a un lavoro da tavolino, in effetti, come la maggioranza dei giovani gentiluomini, egli desiderava un'occupazione priva di lati sgradevoli. Non so quali avrebbero potuto essere le conseguenze se non si fosse chiaramente promesso di andare a Lowick a trovare Mary e a dirle che si era impegnato a lavorare sotto suo padre. Su questo punto non voleva deludere se stesso. Sono molto spiacente, furono tutte le parole che gli riuscì di trovare, ma Mr. Kerr si stava già rabbonendo. Dobbiamo accontentarci, Fred, cominciò tornando al suo consueto tono calmo. Ognuno può imparare a scrivere. Io ho imparato da solo. Mettici tutta la tua buona volontà e sta alzato di notte se il giorno non basta. Porteremo pazienza, ragazzo mio. Callum continuerà per un po' a prendersi cura dei libri mentre tu stai imparando. Ma adesso devo andare, disse Caleb alzandosi. Devi mettere tuo padre al corrente del nostro accordo. Mi farai risparmiare lo stipendio di Callum, sai. Quando saprai scrivere e posso permettermi di darti 80 sterline il primo anno e di più in seguito. Quando Fred fece la necessaria rivelazione ai genitori, l'effetto di questa su di loro fu una sorpresa che si impresse profondamente nella sua memoria. Andò direttamente dall'ufficio di Mr. Gert al magazzino, pensando giustamente che il modo più rispettoso in cui si sarebbe potuto comportare col padre era di dargli la dolorosa notizia del modo più grave e formale possibile. Inoltre, la sua decisione sarebbe stata più certamente presa per definitiva se il colloquio fosse avvenuto durante le ore più serie del padre, che erano sempre quelle trascorse nel suo ufficio personale al magazzino. Fred entrò direttamente in argomento e rivelò in poche parole ciò che aveva fatto e aveva deciso di fare, esprimendo alla fine il proprio dispiacere per essere la causa di una delusione per il proprio padre e attribuendo la colpa alle proprie manchevolezze. Il dispiacere era sincero e suggerì a Fred parole semplici e penetranti. Mr. Vincey lo ascoltò profondamente sorpreso, senza pronunciare neppure un'esclamazione, un silenzio che per il suo carattere impaziente era segno di un'emozione inconsueta. Quella mattina il commercio non gli aveva infuso molto buon umore e la lieve amarezza sulle sue labbra si intensificò mentre ascoltava. Quando Fred ebbe terminato, ci fu un silenzio di quasi un minuto, durante il quale Mr. Vincey ripose un libro nello scrittoio e girò la chiave con forza. Poi guardò il figlio con fermezza e disse: Così ti sei deciso, signorino? Sì, padre. Molto bene, tieni duro, non ho altro da dire. Hai buttato via la tua istruzione e sei sceso di un gradino nella vita quando io ti avevo dato la possibilità di salire. È tutto. Mi spiace se la pensiamo diversamente, padre. Io penso di poter essere un gentiluomo nel lavoro che ho intrapreso, nella stessa misura che se fossi stato un parroco. Ma vi sono grato per aver voluto fare tutto il meglio che potevate per me. Molto bene, non ho altro da dire. Di te me ne lavo le mani. Spero solo che quando avrai un figlio ti ricompensi meglio per le pene che ti sarai dato per lui. Questa frase fu assai sferzante per Fred. Il padre si serviva di quello sleale vantaggio che tutti possediamo quando ci troviamo in una situazione patetica e vediamo il nostro passato come se facesse semplicemente parte del pathos. In realtà, nei desideri di Mr. Vincey per il figlio c'era stata una grande quantità di orgoglio, di sconsideratezza e di follia egoistica. Comunque, il padre deluso teneva ancora in mano una leva efficace e a Fred parve quasi di venir bandito con una maledizione. Spero che non troverete nulla da ridire se resterò a casa, signore, egli disse dopo essersi alzato per andarsene. Avrò uno stipendio sufficiente per pagarmi il vitto, come naturalmente desidererei fare. Il vitto? Al diavolo! Disse Mr. Vincey, riprendendosi disgustato dall'idea che si sarebbe sentita la mancanza del contributo di Fred alla sua tavola. Naturalmente tua madre vorrà che tu rimanga, ma io terrò nessun cavallo per te, capito? E ti pagherai il tuo sarto. Quando dovrai pagarteli da solo, farai con un paio di vestiti in meno, immagino. Fred esitò. C'era da dire ancora qualcosa. Infine venne fuori. Spero che mi stringerete la mano, padre, e mi perdonerete di dispiacere, del dispiacere che vi ho procurato. Mr. Vincey, dalla poltrona, alzò rapidamente lo sguardo verso il figlio, che gli si era avvicinato, e poi gli diede la mano, dicendo in fretta: Sì, non parliamone più. Fred dovette diffondersi in molti più dettagli e spiegazioni con sua madre, ma questa era inconsolabile, avendo davanti agli occhi ciò a cui forse il marito non aveva mai pensato, la certezza che Fred avrebbe sposato Mary Garth, che la propria vita sarebbe da allora in poi stata rovinata da un influsso perpetuo dei Garth e dei loro modi, e che il suo caro ragazzo, col suo viso stupendo e i suoi modi eleganti, superiori a quelli di chiunque altro a Middlemarch, certamente si sarebbe fatto simile a quella famiglia nell'aspetto e nella trascuratezza nel vestire. A lei sembrava che ci fosse una cospirazione dei Gerth per impossessarsi del desiderabile Fred, ma non osò insistere su questa opinione perché un lieve accenno ad essa l'aveva portata ad adirarsi con lei, come non aveva mai fatto prima. Aveva un temperamento troppo dolce per mostrarsi adirata, ma sentiva che la sua felicità aveva ricevuto un colpo. E per diversi giorni la semplice vista di Fred la fece piangere un po', come se questi fosse oggetto di qualche sinistra profezia. Forse impiegò tanto più tempo a recuperare la sua consueta allegria perché Fred l'aveva diffidata da riaprire la dolorosa questione col padre, che aveva accettato la sua decisione e l'aveva perdonato. Se il marito si fosse infuriato contro Fred, lei sarebbe stata spinta a difendere il suo prediletto. Era la fine del quarto giorno quando Mr. Vincey le disse: Andiamo, Lucy, mia cara. Non siate così abbattuta. Avete sempre viziato il ragazzo e avete continuato a viziarlo. Nulla mi aveva ferito tanto in precedenza, Vincey, disse la moglie, mentre la bella gola e il mento cominciavano a tremarle di nuovo. Solo la sua malattia. Popo, non importa. Dobbiamo aspettarci sofferenze dai nostri figli. Non rendetele peggiori mostrandovi a me così scoraggiata. Bene. Non lo farò, disse Mrs. Vincey, sollevata da questo appello e rassettandosi con un leggero scuotimento come di un uccello che distende le piume arruffate. Non va bene cominciare a fare tante storie per uno, disse Mr. Vincey, desiderando unire un po' di mugugna all'allegria domestica. C'è Rosamond oltre a Fred. Sì, poverina, mi è proprio dispiaciuto che abbia perso il bambino, ma si è riavuta bene. Il bambino. Poh, mi pare di vedere che Lydgate sta mandando a monte la sua attività e fa anche dei debiti, a quello che sento. Uno di questi giorni, Rosamond, verrà da me con una bella storia, ma non avranno soldi da me, lo so, che gli aiuti la famiglia di lui. Non mi è mai andato quel matrimonio, ma è inutile parlare. Suonate il campanello perché portino i limoni e non fate più quella faccia smorta, Lucy. Domani vi porto in carrozza a Riverstone assieme a Louisa.